Ventunesima traccia. Chiunque sia stato incaricato dal colonnello Campbell, disse Francher con un sorriso a Emma, quella persona non ha scelto male. Ho sentito parlare un bel po' a Weymouth del gusto del colonnello Campbell e la morbidezza delle note alte, son sicuro, è esattamente ciò che lui e tutto il suo gruppo apprezzerebbero in modo particolare. Scommetterei, Miss Fairfax, che egli ha dato molte precise istruzioni al suo amico o ha scritto lui stesso a Broadwood, non credete? Jane non si voltò, non era obbligata ad ascoltare. Mrs. Weston le stava parlando nello stesso momento. Non è generoso, sussurrò Emma, la mia è stata una congettura a caso, non infastiditela. Egli scosse il capo con un sorriso e prese un'aria come se avesse ben pochi dubbi e pochissima pietà. Poco dopo ricominciò. Quanto devono godere del vostro piacere in questa occasione i vostri amici in Irlanda, Miss Fairfax? Immagino che pensino spesso a voi e si chiedono quale sarà il giorno preciso della consegna dello strumento. Vi figurate che il colonnello Campbell sappia che il piano è adoperato proprio in questo momento? Immaginate che sia la conseguenza di un'immediata commissione da parte sua? O che possa aver dato solo istruzioni generiche, un ordine, senza precisare la data della consegna, lasciandola alle circostanze e alle convenienze? Egli si fermò. Essa non poteva stavolta non sentire, non poteva fare a meno di rispondere. «Finché non ricevo una lettera dal colonnello Campbell», disse con una voce calma ma che tradiva lo sforzo, «non posso immaginare nulla con sicurezza, non sono possibili che congetture». «Congetture, sicuro, talvolta uno fa congetture giuste, tal'altro sbagliate. Mi piacerebbe di poter congetturare quanto mi ci vorrà per fissare a modo questo chiodino». «Che sciocchezze si dicono, Miss Woodhouse, quando si parla mentre si sta assorti in un lavoro. I veri operai, suppongo, frenano la lingua, ma noi, signori meccanici, se afferriamo una parola, Miss Fairfax ha detto qualcosa a proposito di congetture. Ecco, è fatto. Ho il piacere, signora, a Mrs. Bates, di restituirvi i vostri occhiali, guariti per il momento. Venne caldamente ringraziato dalla madre e dalla figlia. Per sfuggire un po' a quest'ultima, si avvicinò al pianoforte e pregò Miss Fairfax, che vi era ancora seduta, di suonare qualcos'altro. «Se volete essere proprio gentile», disse, «sarà uno dei valzer che abbiamo ballato ieri sera. Fatemeli rivivere. Voi non ne avete goduto quanto me. Sembravate stanca tutto il tempo. Credo che siate stata lieta che smettessimo di ballare». Ma io avrei dato tesori, tutti i tesori che uno ha da dare, per un'altra mezz'ora. Essa suonò. Che felicità sentir di nuovo un'aria che ci ha reso felici. Se non mi sbaglio, codesta fu danzata a Weymouth. Essa lo guardò un momento, arrossì profondamente e suonò qualcos'altro. Egli prese della musica da una sedia presso il pianoforte, e, rivolto a Emma, disse: «Qui c'è una cosa del tutto nuova per me. La conoscete? Kramer. E qui c'è una nuova serie di melodie irlandesi. Queste ci si sarebbe potuto attendere da un tal mittente. Tutto questo è stato mandato con lo strumento. Un pensierino gentile da parte del colonnello Campbell, no? Sapeva che Miss Fairfax non poteva avere qui della musica. Do particolar merito a questa parte della sua premura. Mostra che è proprio venuto dal cuore. Non è una cosa fatta in fretta o a mezzo. Solo un vero affetto poteva suggerirla». Emma desiderò che egli fosse meno mordace, ma non poté fare a meno di divertirsi. E quando, volgendo gli occhi verso Jane Fairfax, colse l'ombra d'un sorriso, quando vide che con tutto il profondo rossore della consapevolezza c'era stato un sorriso di segreta letizia, essa si sentì meno scrupoli per il suo divertimento e assai meno compunzione nei riguardi di Jane. Questa amabile, retta, perfetta Jane Fairfax apparentemente nutriva sentimenti assai riprensibili. Le portò tutta la musica e la guardarono insieme. Emma colse l'opportunità per sussurrare. «Parlate troppo chiaramente, lei deve capirvi». «Spero di sì, vorrei che mi capisse. Non mi vergogno affatto della mia intenzione». «Ma davvero, io ho un po' vergogna e vorrei non aver mai lanciato l'idea». «Sono lietissimo che l'abbiate fatto e che l'abbiate comunicata a me. Adesso io posseggo la chiave di tutte le sue arie e le sue maniere strane. Lasciate che provi vergogna lei. Se essa agisce a torto, dovrebbe sentirlo». «Non è del tutto libera, credo. Non ne vedo molti sogni. In questo momento suona Robin Adair, l'aria favorita di lui». Poco dopo, Miss Bates, passando vicino alla finestra, scorse non lontano Mr. Knightley a cavallo. «Oh, ecco Mr. Knightley, devo parlargli se è possibile, solo per ringraziarlo. Non voglio aprire la finestra qui, vi farebbe raffreddare tutti, ma posso andare in camera di mamma, sapete, scommetto che verrà qui quando sa chi c'è. Che piacere vedervi tutti incontrare così, la nostra stanzetta è così tanto onorata». Essa era andata nella camera attigua, mentre seguitava a parlare, e aprendo là i vetri, immediatamente richiamò l'attenzione di Mr. Knightley, e ogni sillaba della loro conversazione fu udita distintamente dagli altri, come se si fosse svolta nello stesso appartamento. «Come state? Come state?» «Benissimo, grazie. Vi sono così obbligata per la carrozza ieri sera. Siamo arrivate proprio in tempo. La mamma ci aspettava proprio allora. Vi prego, entrate, entrate, troverete qui degli amici». Così cominciò Miss Bates, e Mr. Knightley pareva deciso a farsi ascoltare a sua volta, perché in tono molto risoluto e autoritario disse: «Come sta vostra nipote, Miss Bates? Vi chiedo notizie di tutte voi, ma specialmente di vostra nipote. Come sta Miss Fairfax? Spero che non si sia infreddata la notte scorsa. Come sta oggi? Ditemi come sta Miss Fairfax». E Miss Bates fu obbligata a dare una risposta diretta prima che egli volesse ascoltare altro da lei. Gli ascoltatori si divertivano e Mrs. Weston diede a Emma un'occhiata significativa. Ma Emma seguitava a scuotere il capo con scetticismo imperturbabile. «Vi sono così obbligata, tanto obbligata per la carrozza», riprese Miss Bates. Lui tagliò corto con: «Io vado a Kingston, posso far nulla per voi?» «Oh, guarda, Kingston, andate là? Mrs. Cole diceva l'altro giorno che voleva andare da Kingston». «Mrs. Cole può mandare dei servitori, posso far qualcosa per voi?» «No, grazie, ma entrate. Immaginatevi chi c'è qui. Miss Woodhouse e Miss Smith, tanto gentili da farmi una visita per sentire il nuovo pianoforte. Mettete il vostro cavallo alla corona e venite qui». «Ebbene», disse lui pensandoci su, «per 5 minuti forse». «E ci sono anche Mrs. Weston e Mr. Frank Churchill. È una delizia, tanti amici». «No, non adesso, grazie. Non potrei fermarmi 2 minuti. Devo proseguire per Kingston senza indugio». «Ma entrate, saranno così felici di vedervi». «No, no, la vostra stanza è abbastanza piena. Posso venire a farvi visita un altro giorno e sentire il pianoforte». «Ma mi dispiace». «Oh, Mr. Knightley, che deliziosa riunione ieri sera, com'era piacevole. Avete mai veduto un ballo così? Miss Woodhouse e Mr. Frank Churchill, non ho veduto mai nulla di simile». «Oh, delizioso davvero! Non posso dir di meno, perché suppongo che Miss Woodhouse e Mr. Frank Churchill sentano qualunque cosa si dice e», alzando ancor più la voce, «non vedo perché non dovrebbe essere nominata anche Miss Fairfax. Credo che Miss Fairfax balli molto bene e Mrs. Weston è la migliore esecutrice di contraddanze d'Inghilterra, senza eccezione. Ora, se i vostri amici sentono la gratitudine, diranno in cambio qualcosa abbastanza ad alta voce intorno a voi e a me. ma io non posso fermarmi ad ascoltare. Oh, Mr. Knight, un momento ancora, qualcosa di importante, così confuse, Jane e io siamo rimaste entrambe così confuse a proposito delle mele. Che c'è adesso? A pensare che ci avete mandato tutte le mele della vostra provvista. Voi dicevate di averne moltissime e ora non ve ne rimane nessuna. Davvero, siamo confuse. Mrs. Hoyt deve essere piuttosto arrabbiata. William Larkins ne ha parlato qui. Non avreste dovuto farlo, davvero, non avreste dovuto. Ah, se n'è già andato. Non può mai sopportare di ricevere ringraziamenti. Ma pensavo che ora avrebbe consentito a fermarsi e sarebbe stato un peccato di non aver fatto parola. Ebbene, rientrando nella stanza, non ci sono riuscita. Mr. Knightley non può fermarsi. Va a Kingston. Mi ha chiesto se poteva far qualcosa. Sì, disse Jane. Abbiamo sentito la sua gentile offerta. Abbiamo sentito tutto. Oh sì, cara, immagino che potevate sentire, perché, sapete, la porta era aperta e la finestra era aperta. E Mr. Knightley parlava forte. Certo, dovete aver sentito tutto. Posso fare qualcosa per voi a Kingston, ha detto lui. E io dissi appena, oh, Miss Woodhouse, dovete proprio andarvene? Mi pare che siate entrata solo da un momento. Così gentile da parte vostra. Emma sentì davvero che era tempo d'essere a casa. La visita era già durata un pezzo e guardando l'orologio si vide che tanta parte della mattina se n'era andata, che Mrs. Weston e il suo compagno, prendendo pure congedo, poterono concedersi solo di accompagnare le due signorine fino ai cancelli di Hartfield prima di dirigersi verso Randalls. Può essere possibile star senza ballare affatto. Si sono conosciuti esempi di giovani che hanno passato moltissimi mesi di seguito senza recarsi ad alcun ballo, senza riceverne alcun danno importante al corpo o allo spirito. Ma una volta che si è cominciato, una volta che si sono sentite, sia pure debolmente, le delizie del moto rapido, deve essere proprio una costituzione molto pesante quella che non ne desidera ancora. Frank Churchill aveva ballato una volta Ivory e aveva desiderato di ballare di nuovo. E l'ultima mezz'ora d'una serata che Mr. Woodhouse venne persuaso a passare a Randalls con sua figlia fu impiegata dai due giovani in progetti su quell'argomento. Di Frank fu la prima idea e il massimo zelo nel perseguirla, che la ragazza era il miglior giudice delle difficoltà e la più sollecita circa il locale e l'apparenza. Ma pure essa era abbastanza propensa a mostrare ancora alla gente come Mr. Frank Churchill e Miss Woodhouse ballassero squisitamente, a fare ciò in cui non avrebbe dovuto arrossire paragonandosi con Jane Fairfax, o anche semplicemente a danzare, senza nessuno dei perversi incentivi della vanità. Tanto propensa ad aiutarlo prima a misurare la stanza in cui erano, per vedere quanta gente avrebbe potuto contenere, e poi a prendere le dimensioni dell'altro salotto, nella speranza di trovarlo più capace, con tutto che Mr. Weston spergiurasse che avevano esattamente la stessa grandezza. La sua prima proposta e richiesta, che il ballo, cominciato da Mr. Cole, dovesse terminare lì, che si dovesse adunare la stessa compagnia e invitare la stessa suonatrice, incontrò la più pronta approvazione. Mr. Weston adottò l'idea con immenso piacere e Mrs. Weston, assai di buon grado, promise di suonare per tutto il tempo che avrebbero desiderato ballare. Ed era seguita l'interessante occupazione di contare esattamente chi ci sarebbe stato e di distribuire l'indispensabile sezione di spazio a ciascuna coppia. Voi e Miss Smith e Miss Fairfax sarete tre, con le signorine Cox cinque, era stato ripetuto parecchie volte, e poi ci saranno i due Gilbert, il giovane Cox, mio padre e io stesso, oltre a Mr. Knightley. Sì, questo basterà perché la cosa sia piacevole. Voi e Miss Smith e Miss Fairfax sarete tre, con le sue signorine Cox cinque, e per cinque coppie lo spazio basta e avanza. Ma presto cominciò da una parte. ma ci sarà spazio comodo per 5 coppie, davvero non credo che ci sia. E da un'altra, e poi 5 coppie non bastano perché valga la pena di partecipare al ballo. 5 coppie non sono nulla, se ci si pensa sul serio. Non si possono invitare 5 coppie, può passare solo come un'idea improvvisata. Qualcuno disse che si aspettava Miss Gilbert a casa di suo fratello, ed essa doveva venire invitata col resto. Qualcun altro credeva che Miss Gilbert avrebbe ballato la sera trascorsa, se qualcuno l'avesse invitata. Fu detta una parola per un secondo giovane Cox, e alla fine Mr. Weston, avendo dominato una famiglia di cugini che doveva venir compresa, e un altro, una conoscenza di vecchia data che non poteva essere lasciata fuori, divenne certo che le 5 coppie potevano essere almeno 10, e sorse l'interessante problema di come potessero sistemarsi. Le porte delle 2 stanze erano proprio una di faccia all'altra. Non avrebbero potuto usare tutte e 2 le stanze e ballare attraverso il corridoio? Pareva il progetto migliore. Eppure non era tanto buono che molti di essi non ne desiderassero uno migliore. Emma disse che sarebbe stato incomodo. Mrs. Weston si disperava per la cena e Mr. Woodhouse ci si oppose calorosamente per via della salute. Anzi, lo deprimeva talmente che non ci si poté insistere. «Oh no», fece lui, «sarebbe il colmo dell'imprudenza, non potrei sopportarlo per Emma. Emma non è robusta, si piglierebbe un raffreddore terribile, e così la povera piccola Harriet, e così pure voi tutti. Mrs. Weston, voi vi ammalereste. La smettano dunque di parlare di una cosa così pazzesca. Vi prego, fateli smettere. Quel giovanotto, parlando più basso, è proprio scappato. Non l'andate a raccontare a suo padre, ma quel giovanotto non è come si deve». Stasera ha aperto le porte molto spesso e le ha tenute aperte senza nessun riguardo. Non riflette alle correnti. Non voglio mettervi contro di lui, ma proprio non è come si deve. A Mrs. Weston dispiacque l'accusa. Ne sapeva la portata e disse ogni cosa in suo potere per ribatterla. Vennero quindi chiuse tutte le porte. Il progetto del corridoio fu abbandonato e si tornò alla prima idea di ballare solo nella stanza dove si trovavano, e con tanta buona volontà da parte di Frank Churchill che lo spazio che un quarto d'ora prima era stato ritenuto appena sufficiente per 5 coppie ci si ingegnò di dimostrarlo bastevole per 10. «Eravamo troppo grandiosi», disse lui, «concedevamo più spazio del necessario. Qui 10 coppie ci possono stare benissimo». Emma obiettò. «Sarebbe una ressa disperata, e che ci sarebbe di peggio che ballare senza spazio per voltarsi?» «Verissimo», egli rispose gravemente, «è una pessima cosa», ma pure seguitò a misurare e concluse lo stesso. «Credo che ci sia spazio tollerabilissimo per 10 coppie». «No, no», fece lei, «siete proprio ragionevole. Sarebbe terribile stare così appiccicati. Nulla può essere più spiacevole che danzare in una ressa di gente, e una ressa in una camera piccola». «Non si può negare», rispose lui, «sono perfettamente d'accordo con voi, una ressa in una stanza piccola. Miss Woodhouse, voi possedete l'arte di dipingere una scena in 4 parole, squisito, proprio squisito. Tuttavia, ora che siamo arrivati a questo punto, non si ha voglia di rinunziare alla cosa. Sarebbe una delusione per mio padre e infine, non so, propendo a credere che qui 10 coppie c'entrerebbero benissimo». Emma s'accorse che l'indole della sua galanteria era un po' ostinata e che egli avrebbe fatto opposizione piuttosto che rinunziare al piacere di ballare con lei. Ma essa accettò il complimento e perdonò il resto. Se avesse avuto intenzione di sposarlo, sarebbe valsa la pena di pensarci su e cercare di capire il valore della sua preferenza e la natura del suo umore, ma per tutti i fini della loro conoscenza egli era sufficientemente amabile. Prima del mezzodì del giorno seguente egli era Arthur ed entrò nella stanza con un sorriso così gradevole che attestava che il suo progetto era tutt'altro che abbandonato. Presto apparve che egli veniva ad annunciare un miglioramento. «Ebbene, Miss Woodhouse, cominciò quasi immediatamente. La vostra inclinazione alla danza, spero, non sarà stata soffocata dal terrore delle stanzette di mio padre. Recco una nuova proposta, un pensiero di mio padre, che non attende che la vostra approvazione per essere mandato ad effetto. Posso sperare d'aver l'onore della vostra mano per le prime due danze di questo piccolo ballo che abbiamo progettato, da darsi non a Randalls ma all'albergo della Corona? La Corona? Sicuro, se voi e Mr. Woodhouse non ci vedete nulla in contrario, e io confido che sia così, mio padre spera che i suoi amici vorranno usargli la cortesia di fargli visita là. Egli può prometter loro più comodità e una non meno buona accoglienza che a Randalls. È la sua idea. Mrs. Weston non ci vede nulla in contrario, purché siate soddisfatta voi. Questo è il nostro sentimento comune. Avevate proprio ragione. 10 coppie nell'una o nell'altra delle camere di Randalls sarebbe stato intollerabile, spaventoso. Sentivo tutto il tempo quanto avevate ragione, ma mi premeva troppo di trovare qualunque cosa perché potessi cedere di buon grado alle vostre ragioni. Non è un cambio in meglio? Voi acconsentite? Spero di sì. Mi pare un'idea a cui nessuno può muovere obiezioni, se non obiettano Mr. e Miss Weston. La credo ammirevole, e per quello che io posso rispondere per me stessa sarò lietissima. Sembra l'unico miglioramento possibile. Babbo, non pensi che sia un miglioramento eccellente? Fu obbligata a ripeterlo e a illustrarlo prima che venisse capito appieno. E poi, essendo del tutto nuovo, furono necessari ulteriori schiarimenti per renderlo accettabile. No, lui non lo credeva affatto un miglioramento, anzi, una pessima idea, assai peggiore dell'altra. Una stanza in un albergo era sempre umida e pericolosa, non mai areata come si deve o buona per abitarvi. Se dovevano ballare, era meglio che ballassero Randalls. Egli non era mai stato nella stanza della Corona in tutta la sua vita. Non conosceva neanche di vista i proprietari dell'albergo. Oh no, una pessima idea. Vi sarebbero presi peggiori infreddature alla Corona che in qualunque altro posto. Stavo per osservare, signore, disse Frank Churchill, che uno dei grandi vantaggi di questa idea sarebbe il pochissimo pericolo di pigliare infreddature, tanto meno pericolo alla Corona che a Randall. Mr. Perry potrebbe trovare ragioni per rammaricarsi del mutamento, ma non ci sarebbe che lui a pensarla così. Signore, disse Mr. Woodhouse con qualche calore, errate parecchio se pensate che Mr. Perry sia un tipo del genere. Mr. Perry è molto preoccupato quando qualcuno di noi sta male. Ma io non intendo come la stanza della Corona possa essere meno pericolosa per voi della casa di vostro padre. Per solo fatto di essere più vasta, signore, non avremmo affatto bisogno di aprire le finestre, neanche una volta in tutta la serata. Ed è quel terribile vezzo d'aprire le finestre, rovesciando aria fredda su corpi accaldati, che, come voi ben sapete, signore, fa il malanno. Aprire le finestre? Ma davvero, Mr. Churchill, nessuno penserebbe di aprire le finestre, Randall. Nessuno potrebbe essere così imprudente. Non ho mai sentito una cosa simile, ballare con le finestre aperte. Son certo che né vostro padre né Mrs. Weston, che era la povera Miss Taylor, lo tollererebbe. Ah, signore, ma qualche giovane riflessivo talvolta va dietro una tenda e alza una saracinesca di finestra senza che ciò sia sospettato. Io stesso so che questo è successo. Davvero, signore, misericordia, non l'avrei mai supposto, ma io vivo fuori dal mondo e spesso mi stupisco di ciò che sento. Tuttavia, ciò fa una differenza, e forse a ragionarci su. Ma cose del genere richiedono un bel po' di riflessione, non si possono decidere in un battibaleno. Se Mr. e Mrs. Weston vogliono avere la bontà di venirmi a far visita una mattina, possiamo ragionarci su e vedere che cosa si può fare. Ma disgraziatamente, signore, il mio tempo è così limitato. Oh, interruppe Emma. Ci sarà quanto tempo si vuole per ragionarvi tutto. Non c'è nessuna fretta. Se si può fare che sia la Corona, babbo, sarà convenientissimo per i cavalli. Saranno così vicini alle loro stalle. Sicuro, mia cara, questa è una gran cosa. Non che James si lamenti mai, ma è giusto risparmiare i nostri cavalli quando lo possiamo. Se potessi essere sicuro che il locale è ben areato, ma ci si può fidare di Mrs. Stoke? Ne dubito, non la conosco neppure di vista. Posso rispondere io di ogni cosa di quel genere, signore, perché se ne prenderà cura Mrs. Weston. Mrs. Weston si incarica di soprintendere tutta la festa. Vedi, babbo, ora devi essere soddisfatto della nostra cara Mrs. Weston, che è la prudenza personificata. Non ti ricordi quel che disse Mr. Perry tanti anni fa quando io ebbi il morbillo? Se Miss Taylor si incarica di tenere Emma ben coperta, non avete nulla da temere, signore. Quante volte te ne ho sentito parlare come di un gran complimento fatto a lei? Già, verissimo. Mr. Perry disse proprio così. Non lo dimenticherò mai, povera Emmuccia. Stavi malissimo col morbillo, cioè saresti stata malissima se non c'erano le grandi cure di Mr. Perry. Per una settimana venne 4 volte al giorno. Fin da principio disse che era una forma benigna, che ci confortò assai, ma il morbillo è una malattia orribile. Spero che quando i bambini della povera Isabella avranno il morbillo, essa manderà a chiamare Perry. Mio padre e Mrs. Weston sono in questo momento alla corona, disse Frank Churchill, a esaminare come si presta l'albergo. Li ho lasciati là e sono venuto a Hartfield, impaziente d'avere la vostra opinione e sperando che possiate lasciarvi persuadere a recarvi là da loro e dare il vostro consiglio sul posto. Mi hanno chiesto entrambi di dirvelo. Farebbe loro un immenso piacere se mi permetteste d'accompagnarvi là. Senza di voi essi non possono far nulla di soddisfacente. Emma fu lietissima d'essere invitata a un tal concilio. Ed essendosi il padre impegnato a riflettere sulla cosa durante l'assenza di lei, i due giovani, senza un indugio, si recarono alla corona. C'erano là Mr. e Mrs. Weston, incantati di vedere Emma e di ricevere la loro approvazione, affaccendatissimi e felicissimi ciascuno a modo suo. Lei con qualche grattacapo, lui pronto a trovare tutto perfetto. «Emma», disse Mr. Weston, «questa carta è peggiore di quanto mi aspettavo. Guarda, in qualche punto è spaventosamente sporca e i pannelli di legno sono più gialli e malandati quanto avrei potuto immaginarmi». «Mia cara, sei troppo meticolosa», le disse il marito. «Che vuol dire tutto ciò? Alla luce delle candele non t'accorgerai di nulla. Alla luce delle candele sembrerà pulito come a Randalls. Noi non ce ne accorgiamo mai nelle serate al nostro circolo». A questo punto le signore si scambiarono probabilmente occhiate che volevano dire. Gli uomini non si accorgono mai se le cose sono sporche o no. E i signori forse non pensarono ciascuno fra sé. Le donne non possono fare a meno delle loro piccole assurdità e delle loro inutili preoccupazioni. Tuttavia sorse una perplessità che gli uomini non disdegnarono. Riguardava la camera per la cena. Nel tempo in cui era stata edificata la sala da ballo non si era pensato a cene e l'unica aggiunta era stata una saletta da gioco attigua. Che cosa si poteva fare? Ora questa saletta da gioco sarebbe bisognata come saletta da gioco o, se da loro 4 i giochi di carte erano convenientemente proclamati non necessari, pure la camera non era troppo piccola per una cena comoda. Si sarebbe potuto adibire a quello scopo un'altra camera da 6 migliori proporzioni, ma si trovava all'altra estremità dell'albergo e per giungervi bisognava passare per un lungo e scomodo corridoio. Ciò costituiva una difficoltà. Mrs. Weston aveva paura di correnti d'aria per i giovani in quel corridoio e né Emma né i signori potevano sopportare l'idea di essere miseramente accalcati a cena. Mrs. Weston propose di non fare una vera e propria cena, solo tramezzini e simili preparati nella saletta, ma questa fu bocciata come idea infelicissima. Un ballo privato, senza sedersi a cena, venne proclamato un'infame frode dei diritti degli uomini e delle donne, e Mrs. Weston non doveva parlarne più. Allora essa ricorse a un altro espediente e, osservando la saletta, disse: «Non mi pare che sia poi così piccola. non saremmo in molti, sapete. E al tempo stesso Mr. Weston, percorrendo energicamente a gran passi il corridoio, comunicava ad alta voce: «Parli tanto della lunghezza di questo corridoio, cara, ma è un'inezia e non viene la minima corrente d'aria dalle scale.